che confermi che nel Vaticano sono presenti una serie di strategie articolate, che una delle quali è anche quella dei cattolici comunisti. Hai capito questo? Se poi che poi ci sia un intervento diretto di Pio XII per salvargli la pelle, questo è vero, lo dice Andreotti, questo rapporto di Andreotti ai servizi segreti americani, che lui non ha smentito. Che addirittura a Pio XII dice a Andreotti, ha visto come siamo stati discreti, siamo stati discretissimi, cioè addirittura su richiesta di Andreotti, cioè dei cattolici comunisti, tramite Andreotti, lui non fa un attacco ai comunisti per non dare fastidio a loro. Also er will diese, er kann jetzt noch nicht endgültig Stellung nehmen, Herr Benny Schorli hat auch Bedenken über die Interpretation. Es steht ja noch die Frage. Scuso anzitutto che sono venuto tardi, io ho preso parte fino adesso a tutti i seminari di storia moderna qui del nostro, o quasi tutti i seminari del nostro istituto, dal primo all'ultimo giorno, e ho sempre avuto anche, il collega Repkin si ricorderà, me ne darà atto, sempre detto che è necessario che tutti i relatori rimangano per tutto il tempo, perché altrimenti dicono delle cose che sono già state dette, o ad ogni modo non è giusto. Invece questa volta io stesso non ho potuto venire prima, anche a causa dello sciopero che ieri, che altrimenti sarei venuto già giovedì. Farò oggi soltanto una, non una relazione conclusiva, ma una specie di chiacchierata molto personalistica, personale, anche di ricordi, perché proprio nel periodo in cui, di cui questo seminario si è occupato fino adesso, io sono stato giornalista attivo di politica estera a Vienna, e così ho potuto, diciamo, osservare anche tutta la stampa austriaca, tutto l'atteggiamento degli uomini politici e di quello che si chiama la öffentliche Meinung, l'opinione pubblica. Ich beginne also jetzt auf Deutsch. Gestatten Sie bitte, dass ich dieses kurze Referat, das wie gesagt mehr eine Plauderei sein wird, aus meinen persönlichen Erlebnissen, auch mit einer ganz persönlichen und keineswegs bedeutenden Erinnerung deshalb beginne, weil sie mit den beiden Persönlichkeiten zu tun hat, mit denen wir uns hier zu beschäftigen haben. Vor 15 Jahren, im Herbst 1964, wurde zum 10-jährigen Gedenken an das Ableben de Gasperis in Köln in der Minoritenkirche eine Seelenmesse gelesen. Der damals schon fast 89-jährige Konrad Adenauer, seit einem Jahr nicht mehr Bundeskanzler, aber noch immer der große alte Mann und Patriarch der deutschen Politik, es war 2,5 Jahre vor seinem Tod. Er war aus diesem Anlass nach Köln gekommen und kniete während der ganzen ziemlich langen Seelenmesse in der für ihn charakteristischen aufrechten Haltung auf seinem Betschemel. Es war der letzte unmittelbare persönliche und sehr starke Eindruck, dieser Mann, der mit 89 Jahren, also noch die ganze Messe, wie gesagt, außer beim Vater Unser, wenn er aufgestanden ist, eben durchgekniet hat, 2,5 Jahre, wie gesagt, vor seinem Tode. Damit mit dieser Erinnerung, es war das letzte Mal, wie gesagt, dass ich ihn gesehen habe. Hier auch ein Unterschied gleich. Während ich de Gasperi persönlich nie bewusst begegnet bin, das heißt, ich bin ihm sehr oft begegnet, aber ich wusste nichts von seiner Bedeutung. Ich arbeitete Das war 1941 in der Bibliotheca Vaticana und sah natürlich alle Bibliothekare jeden Tag und darunter auch De Gasperi. Ich erinnere mich auch an sein Gesicht, aber ich ahnte damals natürlich nichts von der politischen Bedeutung und der Zukunft dieses Mannes. So bin ich als Journalist mit Adenauer 1957 während seines Wien-Besuchs zweimal oder eigentlich dreimal zusammengetroffen, habe mit ihm auch ein längeres politisches Gespräch geführt über das Verhältnis zu Polen, weil ich kurz vorher in Polen gewesen war, und bin ihm dann auch während meiner Kölner Lehrtätigkeit mehrmals in kleineren Kreis begegnet. Er hat ja auch öfters die Kölner Universität besucht als deren Wiederbegründer im Jahre 1919, er sich mit Recht betrachten konnte und auch entsprechend gefeiert wurde. Ich bin also auch mit mehreren seiner Kinder, seinen Söhnen Konrad, Paul, Max und seiner Tochter Liebet öfters zusammengetroffen und habe so den Adenauer-Mythos, aber auch die Anti-Adenauer-Stimmung der zu Ende gehenden Adenauer-Ära, die ja nicht das Thema dieses Seminars ist, miterlebt. Für mein heutiges Referat aber beziehe ich mich, wie gesagt, vor allem auf meine Erfahrungen und Eindrücke in der Zeit von 1946 bis 1958 als politischer Journalist in Österreich, also gerade in jenem Zeitraum, dem die Thematik dieses Seminars gilt. Einer breiteren österreichischen Öffentlichkeit sind De Gasperi und Adenauer erst in der Zeit nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bekannt geworden. Gewiss hatte De Gasperi in Wien studiert, war dabei einigen später in der österreichischen Politik maßgeblichen Männern begegnet, so dem späteren christlich-sozialen Arbeiterführer Franz Hemala, Hemala, H-E-M-A-L-A, dem Schwiegervater des späteren Bundeskanzlers Figl und vor allem natürlich, lo sa bene l'amico Corsini, dem Herausgeber und Chefredakteur der katholischen Tageszeitung Reichspost, Dr. Friedrich Funder, nach dem der nationalsozialistischen Zeit und seinem KZ-Aufenthalt dann der Begründer der katholischen Wochenschrift Die Furche, deren Mitarbeiter ich auch in den ersten Jahren nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft war, diesem Dr. Friedrich Funder, der ja dann 1952 in seinen Lebenserinnerungen von einem dramatischen Gespräch mit dem jungen Trentiner Reichsratsabgeordneten De Gasperi kurz vor dem Kriegseintritt Italiens im Frühjahr 1915 berichtete. Und als De Gasperi dann italienischer Außenminister und Ministerpräsident wurde, ging man in Österreich natürlich auch den Erinnerungen an seine politische Lehrzeit im Wiener Reichsrat nach, befragte die Quartierwirte und Studienkollegen und so weiter. Auch Konrad Adenauer, seit 1917 Oberbürgermeister der bedeutenden Stadt Köln und prominenter Zentrumspolitiker in der Weimarer Republik, hatte naturgemäß mancherlei Beziehungen zu christlich-sozialen Kreisen in der Zwischenkriegszeit und zu Persönlichkeiten in Österreich. Er hat Wien anlässlich des großen deutschen Sängerfests 1928 besucht. Sein Lieblingsmarsch war ja bekanntlich der Deutschmeistermarsch, der Regimentsmarsch des Wiener Hausregiments, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Und dass die christlich-soziale Kommunalpolitik des großen Wiener Volksbürgermeisters Dr. Karl Lueger auch für Adenauers Kölner Kommunalpolitik eine gewisse vorbildhafte Bedeutung hatte, kann zumindest als sehr wahrscheinlich angenommen werden. Während seines Staatsbesuches, es war, ich sagte es gerade vorhin auch Freund Repken, es war zwar formell protokollarisch kein Staatsbesuch, da Adenauer ja nicht Bundespräsident, kein Staatsoberhaupt war, aber es war tatsächlich fast mehr als ein Staatsbesuch, jener Besuch im Jahre 57. Da stellte er beim Wiedersehen mit Wien nach rund 30 Jahren mit fast wehmütig neiderfüllter Anerkennung fest, dass Wien im Gegensatz zu den von den Bomben Krieg ja viel härter getroffenen Städten der Bundesrepublik, wie er sagte, sein Gesicht bewahrt habe. Wichtig aber wurden die beiden Staatsmänner für Österreich dann erst in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Beide Länder, Deutschland und Italien, waren durch vielfältige geschichtliche und geografische Bande für Österreich wichtig. Und das Niedergehen des Eisernen Vorhangs an Österreichs Grenzen zur Tschechoslowakei, zu Ungarn und zunächst auch noch zu Jugoslawien verstärkte noch diese Bedeutung. Dabei war Italien als Fenster zur freien Welt für Österreich zunächst fast noch wichtiger, da die alliierten Besatzungsmächte in Unkenntnis der während der Hitlerzeit in Österreich vor sich gegangenen psychologischen Veränderungen, immer noch vor dem Gespenst eines Anschlusses sich fürchtend, zwischen Österreich und dem besetzten Deutschland zunächst eine fast hermetische Absperrung errichtet haben, die erst allmählich gelockert wurde und außerdem ja die politische Entwicklung unter dem Besatzungsregime in Deutschland zunächst unklar und undurchsichtig blieb. Soll ich jetzt dann übersetzen? Ja, vielleicht. Ja. Adesso parlerò in italiano. Come ho già detto, questo sarà piuttosto una chiacchierata che comincia anche con un ricordo molto personale. 15 anni fa, nell'autunno del 1964, in occasione dei 10 anni dopo la morte di De Gasperi, fu celebrato una messa in suffragio a Colonia nella chiesa dei minoriti. In questa occasione Adenauer, che aveva quasi 89 anni, già non più, da un mezzo anno non più, da un anno non più cancelliere, ma ancora il grande patriarca della politica tedesca, venne da Röndorf a Colonia. E per tutta questa messa, questa lunga messa in suffragio, più di tre quarti d'ora, per tutti i tre quarti d'ora, lui stava inginocchiato sul suo inginocchiatoio, va bene che era foderato, ma lo stesso, nella sua tipica posizione dritta e corretta, diciamo, come un soldato, e anche dal punto di vista fisico era una cosa straordinaria. E questo bisogna anche sempre tenere presente, che la forza fisica di Adenauer era una cosa straordinaria anche, diciamo, dal punto di vista politico. Non l'ho detto adesso in tedesco, lo dico in italiano, forse gli altri capiranno. Anche durante questa sua visita a Vienna nel 57, lui stupiva tutti gli austriaci e tutti per la sua enorme capacità di vivacità. Aveva allora soltanto 82 anni, ma come andava da una visita all'altra, prendendo in giro il suo entourage, il suo seguito, dicendo: "No, meine Damen und Herren, mir scheint, Sie sind ja schon müde", e andava da una cosa all'altra, e quando si domandava se non era stanco, diceva: "In Bonn ist es noch viel mühsamer, aber weniger schön", faceva questa gentilezza anche. Ad ogni modo, questo era, diciamo, l'ultima volta che l'ho visto personalmente, e questo mi dà occasione di dire anche la differenza: non ho mai incontrato coscientemente De Gasperi, cioè l'ho visto probabilmente per un certo periodo ogni giorno alla Biblioteca Vaticana, ma non sapevo chi fosse questo signor bibliotecario che ho visto. Mi ricordavo poi dopo anche della faccia, perché ho lavorato nel nella Biblioteca Vaticana nel 1941 e non sapevo niente della sua importanza politica. Mentre Adenauer l'ho visto parecchie volte, ci ho anche parlato una volta lungamente su questioni politiche e poi specialmente a Colonia l'ho rivisto tante volte in piccolo, anche in una piccola cerchia, e specialmente perché lui è anche venuto spesso all'Università di Colonia, di cui lui si sentiva giustamente rifondatore, perché l'Università di Colonia fondata nel 1388 e poi abolita dai francesi è stata rifondata da Adenauer nel 1919, cioè di lui e di altri, ma specialmente di lui, e lui fu così sempre festeggiato come il rifondatore di questa nostra università. E così naturalmente ho conosciuto Adenauer meglio, ho conosciuto anche il mito di Adenauer del suo ultimo tempo e anche il sentimento anti-adenaueriano nell'ultima fase del suo governo. Per la mia relazione o chiacchierata, però, mi riferisco specialmente sulle mie esperienze e impressioni del periodo dal 46 al 58, quando io sono stato come giornalista di politica estera, giornalista politico in Austria, e avevo naturalmente dovevo leggere ogni giorno tutti i giornali, e così posso fare certe generalizzazioni, dire certe generalizzazioni anche senza documentarli, salvo rare eccezioni. Dunque, per la pubblica opinione austriaca, tutti e due gli uomini sono diventati noti soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Certamente De Gasperi ha studiato prima della Prima Guerra Mondiale, come noto, a Vienna, ha fatto i suoi studi, era un attivo studente di un'associazione cattolica e ha incontrato in questa occasione anche uomini che più tardi hanno avuto una certa importanza politica, come per esempio uno dei suoi colleghi di studio era Franz Hemala, che era poi uno dei capi del movimento operaio cattolico e suocero del cancelliere Figl, del primo cancelliere dopo il 45. E poi naturalmente il noto contatto con Friedrich Funde, che era il editore e direttore del giornale, del quotidiano cattolico Reichspost, e che poi dopo la parentesi nazista, dopo che lui è stato nel campo di concentramento a Dachau, dopo la guerra ha fondato il settimanale cattolico di Furche, e lui che era in un certo senso il mio maestro nel giornalismo, il mio primo maestro nel giornalismo, lui nel 52 ha poi pubblicato le sue memorie, Von gestern ins heute, dal ieri al domani, al oggi, sì, da ieri a oggi, le sue memorie, nelle quali ha parlato appunto senza nominarlo, perché De Gasperi in quel momento era ancora primo ministro, presidente del Consiglio in Italia, senza nominarlo, ma era chiaramente visibile, e poi l'ha detto a me e ad altri che era De Gasperi, questo suo ultimo famoso colloquio con De Gasperi, prima a causa delle trattative per la cessione del Trentino, tutte queste trattative nei quali anche Funder aveva una certa parte, e De Gasperi era venuto per domandargli: adesso diteci chiaramente, volete cederci o non volete cederci, perché noi dobbiamo regolarci. Dunque, naturalmente, quando De Gasperi poi è diventato ministro degli esteri, presidente del Consiglio in Italia, allora in Austria naturalmente si è ricercato, si è parlato del suo periodo nel Parlamento come deputato, si è rispolverato, diciamo così, si è indagato dove abitava, che posto aveva nel Parlamento e tutte queste cose, ma questo era post festum. E lo stesso si può dire in un certo senso anche di Konrad Adenauer, che dal 17 era sindaco o borgomastro di Colonia, della importante città di Colonia, e un prominente politico del uomo politico del Centrum, che aveva naturalmente dei contatti anche con i politici cristiano-sociali in Austria, benché documenti su questo ci sono pochi. C'è una sola lettera nei nostri archivi di Adenauer al Monsignore Seipel, perché c'è qui l'amico Bendiscioli che ha scritto su Seipel, dove domandava qualche oggetto per una mostra sul Sacro Romano, oggetti del Sacro Romano Impero, del tesoro, eccetera. Ad ogni modo aveva dei contatti con Vienna, è stato a Vienna nel 28 in occasione della grande festa dei cantanti dei Männergesangsverein, perché lui era membro dei Männergesangsverein, anche lui, che aveva una bella voce, cantava in questi cori maschili, ed era venuto al Sängerfest di Vienna nel 28, e ho nominato che anche la sua marcia preferita era una marcia austriaca, il Deutschmeistermarsch del reggimento di Vienna. È probabile, ma non si può documentarlo, che naturalmente la politica comunale cristiano-sociale di Lueger, che era il grande esempio, abbia in un certo senso anche influito sulla politica comunale, forse, su questo si potrebbe discutere, ma io lo credo probabile sulla politica comunale di Adenauer a Colonia. Durante la sua visita a Vienna nel 1957, quando ha rivisto Vienna dopo quasi 30 anni, lui ha detto con una certa nostalgia o quasi una invidia che Vienna è riuscita a conservare il suo volto, a differenza di molte città germaniche che naturalmente a causa dei bombardamenti e delle costruzioni moderne hanno più perso il loro volto. Importante però, questi due statisti sono diventati per l'Austria soltanto nell'immediato dopoguerra. Tutti e due i paesi, la Germania e l'Italia, erano collegati, connessi con Austria per varie legami storiche e geografiche, e poi bisogna anche tenere presente che la cortina di ferro che chiudeva ermeticamente dopo il 46, si può dire, la frontiera dell'Austria al nord contro la Cecoslovacchia, a est contro l'Ungheria e anche a sud verso la Jugoslavia in un primo periodo, solo dopo è diventata più permissibile, più trasparente, e questo ha ancora contribuito all'importanza della Germania e dell'Italia, e forse più dell'Italia in un primo momento che non della Germania, perché l'Italia era la vera finestra verso il mondo libero in quel periodo, mentre le potenze occupatrici, gli alleati, hanno chiuso ermeticamente in un primo tempo la frontiera fra l'Austria e la Germania, perché ancora avevano paura di sentimenti pangermanici, eccetera, e non si erano resi conto che durante l'occupazione hitleriana anche psicologicamente erano avvenute delle trasformazioni. E poi c'è anche il fatto che la Germania in quel periodo col regime di occupazione era poco, diciamo, Non si vedeva bene che cosa venisse fuori. L'Italia era più uno stato già esistente, stabile, poi c'è la grande ondata della cultura italiana, il film neoverista, eccetera, aveva una certa importanza per la per l'Austria. Zwischen Italien und Österreich aber stand natürlich zunächst 1945-46 die Südtirol-Frage, die vor allem in Nord- und Südtirol, aber auch im übrigen Österreich nach 1945 gehegte Hoffnung auf eine Revision der Entscheidung von 1918-19 und auf die Rückkehr des deutschsprachigen Südtirol zu Österreich. Die im Gruber-De Gasperi-Abkommen geschaffene Regelung bedeutete daher für die Österreicher und ganz besonders für die Tiroler, ich habe gerade 1946-47 in Innsbruck gelebt, das erste Jahr nach meiner Rückkehr aus der Gefangenschaft, für die Tiroler zunächst eine herbe Enttäuschung und einen schmerzlichen Verzicht. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass etwa Außenminister Dr. Gruber bei der Rückkehr aus Paris auf dem Innsbrucker Bahnhof ja von einem Hitzkopf geohrfeigt worden ist. Andererseits aber bedeutete dieses Abkommen auch eine Hoffnung als Beispiel für die Entschärfung nationaler Gegensätze nach dem selbstmörderischen Amoklauf des übersteigerten Nationalismus. Gerade im Zusammenhang damit wurde die Trentiner Herkunft und De Gasperis Lehrzeit im österreichischen Vielvölkerparlament in der österreichischen Publizistik immer wieder besonders betont. Hegte man damals doch besonders in politischen Kreisen Nord- und Südtirols teilweise übertriebene Hoffnungen auf die österreichische Tradition im Trentino und auf ein Zusammengehen mit Trient gegen Rom. Als sich diese Hoffnungen nicht erfüllten, kam es im Laufe der 50er Jahre dann zu einer wachsenden Kritik an dem Gruber-De Gasperi-Abkommen von 1946 und damit auch zu Vorwürfen an die Adresse des inzwischen verstorbenen Trentiner Staatsmannes. Er habe die Südtiroler und die Österreicher mit dem Pariser Abkommen vom 6. September 1946 und seiner mehrdeutigen und unklaren Bestimmungen bewusst hereingelegt. Kann ich jetzt wieder in Italienisch, ja. Fra l'Italia e l'Austria c'era naturalmente subito dopo il 45-46 il problema del Sud Tirolo, il problema altoatesino, una questione che fu specialmente sentita nel nord e nel sud del Tirolo, ma anche nel resto dell'Austria dopo il 45, con la speranza di una revisione della decisione del 18-19 e di un ritorno del Alto Adige di lingua tedesca, cioè fino a Salorno, in Austria. La soluzione dell'accordo Gruber-De Gasperi era in un principio naturalmente per gli austriaci, e specialmente naturalmente per i tirolesi, una forte delusione e una rinuncia dolorosa. Ricordo il fatto che il ministro Gruber al ritorno da Parigi fu schiaffeggiato da una testa calda alla stazione di Innsbruck. Ma dall'altra parte questo accordo fu anche salutato, sempre diciamo con una lacrima e un sorriso, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, salutato come una speranza di un esempio per superare le vecchie beghe nazionaliste europee. In un futuro c'era il periodo di un grande primo slancio europeistico. E in connessione con questo fu sottolineato sempre nella stampa austriaca l'origine trentino di De Gasperi e il suo tirocinio nel Parlamento multinazionale, plurinazionale austriaco, lui diciamo così come un esperto di problemi nazionali che poteva capire il problema delle minoranze anche meglio degli altri italiani che ancora vivevano nell'idea della, dello Stato nazionale. Bisogna anche tener conto che specialmente nei circoli politici del nord e del sud, a nord e sud del Brennero, c'erano delle speranze spesso esagerate nella tradizione austriaca, diciamo così, del Trentino, dei ricordi, certe nostalgie. Si sperava in quel periodo di poter trovare nei trentini degli alleati contro Roma, tanto più forte era poi diciamo la delusione quando questo non si è avverato. Allora nel corso degli anni 50, specialmente verso la fine degli anni 50, nascono anche dei rimproveri all'indirizzo dello statista, intanto era già morto, Trentino, di De Gasperi, da parte degli austriaci che dicevano che lui in fondo avesse imbrogliato i tirolesi con questa formula un po' vaga, ambigua dell'autonomia. Cosa? Quadro. Sì, sì, sì, frame, la famosa interpretazione della parola frame, eccetera, che lui abbia imbrogliato i tirolesi. Zunächst aber bestand österreichischerseits ein großes Vertrauen zu De Gasperi und eine leidenschaftliche Teilnahme an seiner Auseinandersetzung mit der großen und starken kommunistischen Partei Italiens. Man muss sich dazu daran erinnern, dass bei den ersten Nationalratswahlen im November 1945 die Kommunisten von 165 Mandaten nur 4 erringen konnten, dass ihr bestes Ergebnis mit Hilfe einer linkssozialistischen Absplitterung dann 5 Mandate bei den Wahlen von 1949 war, sie 1953 wieder auf 4 Mandate zurücksanken, 1956 auf 3 und dass sie seit 1959, also seit 20 Jahren, im Parlament überhaupt nicht vertreten sind, dass sie heuer ja bei den Gemeinderatswahlen in Klagenfurt das letzte Gemeinderatsmandat in einer größeren Stadt verloren haben und bei den heurigen Nationalratswahlen sogar unter die 1%-Grenze des Stimmenanteils sanken. Also zahlenmäßig eine Quantität negligible in der österreichischen Innenpolitik darstellten und darstellen. Allerdings in der Besatzungszeit 1945 bis 1955, also in der ganzen Zeit bis über den Tod De Gasperis hinaus, dank der ihnen von der sowjetischen Besatzungsmacht in Wien und Ostösterreich gewährten Unterstützung, von der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung doch als eine ständige, latente Bedrohung der neu erstandenen Demokratie empfunden wurde. De Gasperis überwältigender Wahlsieg vom 18. April 1948 wurde daher in ganz Österreich mit vielleicht noch größerer Erleichterung als im übrigen freien Europa begrüßt und als zweites Lepanto gefeiert. Auch für das Projekt einer Wahlrechtsreform zur Stabilisierung der Mehrheitsverhältnisse, der famosa Legge Truffa, hatte man in Österreich Verständnis. Der Rücktritt des Trentiner Staatsmannes von der Ministerpräsidentschaft 1953 wurde daher auch in den politischen Kreisen Österreichs aufrichtig bedauert, wenngleich man seinem Nachfolger Pella, dem ja der Ruf eines erstklassigen Wirtschaftsfachmannes, ähnlich wie Ludwig Erhard, ja dann, ist ein ganz ähnlicher Fall, eine Parallele, voranging, auch einen beträchtlichen Vertrauensvorschuss entgegenbrachte. Der Tod de Gasperis im Sommer 1954, mitten in der tödlichen Krise des Projekts der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, rief dann in Österreich allgemeine tiefe und ehrliche Trauer hervor. Als Beispiel möchte ich nur etwa auf die Zeitung Die Presse hinweisen, die eine große Schlagzeile mit Italien trauert die freie Welt um De Gasperi und einen Leitartikel des damaligen außenpolitischen Redakteurs, nein, des damaligen stellvertretenden Chefredakteurs und späteren Chefredakteurs und jetzigen Herausgebers Otto Schulmeister unter dem Titel Tiefe Trauer, die mit den Worten endet, der Politiker De Gasperi kannte die Realitäten und er hatte Prinzipien, so wurde er zum Staatsmann, an dessen Bahre nicht nur das italienische Volk, sondern das ganze heimgesuchte Europa trauert. Und es ist vielleicht auch bedeutsam, dass er in diesem Artikel, Schulmeister ja sehr gute Beziehungen, gerade in katholischen Kreisen, aus denen er ja stammte, hatte, schon auch darauf hinwies, dass De Gasperi nie die Absicht hatte oder nie der Versuchung erlegen ist, sich das Leben durch ein Bündnis mit den Extremisten leichter zu machen. Er hätte immer gewusst, dass man den Teufel nicht mit Beelzebub austreiben dürfe. Hier ist offenbar eine Anspielung auf die berühmte Operation Jeddah und so weiter schon in diesem Artikel enthalten. Adesso ritorno in italiano perché questo mi sembra specialmente importante. Voglio dire che das mit mir eingelegt, ja, imbrogliato, ja. Ja, nonostante questa critica verso la fine degli anni 58, al principio c'era una grande fiducia in De Gasperi e un interesse proprio passionale nella sua lotta contro il grande e forte partito comunista o contro la non solo partito comunista ma partito contro la sinistra italiana. Bisogna anche ricordare che in questa situazione, che in Austria nelle prime elezioni del novembre del 45 il partito comunista aveva solo ha raggiunto solo 4 seggi su 165 del Parlamento e che il miglior risultato poi con l'aiuto di un gruppo che era andato via dal Partito Socialista Austriaco, socialisti di sinistra, erano 5 mandati nelle elezioni del 49, che nel 53 poi erano ricaduti a 4, nel 56 a 3 e che dal 59, cioè da 20 anni, non hanno più un deputato nel Parlamento austriaco e in quest'anno hanno toccato un nuovo record negativo, cioè nelle elezioni di maggio hanno raggiunto meno di 1% dell'elettorato e hanno perso poco prima nelle elezioni comunali di Klagenfurt l'ultimo seggio consiglio comunale di una grande città. Adesso non hanno neanche, in nessuna città ci sono consiglieri comunisti. Certamente i comunisti erano e sono sempre una quantità negligiabile nella politica interna austriaca, però durante il periodo de Gasperiano, cioè per tutto il periodo dell'occupazione dal 45 al 55, naturalmente i comunisti, dato l'appoggio che avevano nella potenza occupatrice sovietica, erano considerati dagli austriaci anche per la ragione, come ho detto, che l'Austria in gran parte circondata da democrazie popolari, di un pericolo. Perciò la grande stravolgente vittoria di De Gasperi il 18 aprile 48 fu salutato in Austria, forse con ancora un più grande sollievo che nel resto dell'Europa libera, e che fu festeggiato appunto un articolo nella Furche come una seconda Lepanto. Anche per il progetto di stabilizzare un po' l'equilibrio nel Parlamento attraverso una riforma elettorale, la famosa legge truffa, come fu chiamato dagli avversari, si aveva comprensione in Austria. Le dimissioni dello statista trentino nel 1953 furono perciò dolevano molto in Austria, benché in un primo momento si aveva anche una grande fiducia in Pella, che aveva la fama di un grande esperto economico, un po' un parallelo alla situazione di Erhard con Adenauer. Anche lui fu in un primo momento considerato un degno successore. La morte di De Gasperi, proprio nella crisi letale del 54 della comunità difensiva europea, fu perciò generalmente compianto, e io ho citato qui come esempio sia la prima linea della presse con l'Italia lutto di tutto il mondo libero per De Gasperi, e un articolo di fondo di Otto Schulmeister, che allora era vice direttore, anche sotto il titolo Lutto profondo, e dove dice che De Gasperi era un uomo di principi e che perciò tutta, non solo gli italiani, ma tutta l'Europa afflitta sta attorno alla sua bara. E questo articolo è anche interessante perché sottolinea anche che De Gasperi mai stato ceduto alla tentazione di alleggerire il peso del governo con un trattamento con gli estremisti. L'ha lasciato un po' come l'uso di Schulmeister, un po' ambiguo chi intendeva con questi estremisti, però dice poi sapeva bene che non, in nessuna occasione si può cacciare via il diavolo con l'aiuto di Belzebù. Insomma, è una chiara allusione Schulmeister, che aveva dei contatti molto dentro nel mondo cattolico, che naturalmente sapeva di questa famosa operazione Don Sturzo, credo che si chiamasse. In manchem ähnlich, in anderen Punkten wieder doch verschieden, war die Einstellung der öffentlichen Meinung in Österreich zu Person und Werk Konrad Adenauers. Auch hier wurden das demokratische Aufbauwerk und die Wiederherstellung des internationalen Ansehens restlos anerkannt und bewundert, zumal man ja aus eigener Erfahrung und den gleichzeitigen Erfolgen und Bemühungen die Schwierigkeiten wie die Leistungen richtig beurteilen konnte. Die entschiedene Hinwendung zum Westen und der Verzicht auf eine Ost-West-Schaukelpolitik fanden gerade auch aus der besonderen österreichischen Situation weitestgehende Zustimmung. Ebenso die Europapolitik und nach dem allgemein bedauernden Scheitern der EVG, eben der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, auch die Eingliederung Deutschlands in die NATO. Die politisch Wissenden erkannten auch durchaus den, ob zwar ungewollten, aber doch wichtigen Beitrag an, den diese deutsche NATO-Politik zur überraschenden Bereitschaft der Sowjetregierung zum Abschluss des österreichischen Staatsvertrags am 15. Mai 1955 geleistet hatten. simile, ma anche da un altro lato diverso, era l'atteggiamento dell'opinione pubblica in Austria verso la persona e l'opera di Konrad Adenauer. Anche qui fu ammirato la ricostruzione democratica e la ricostruzione del prestigio internazionale della Germania, specialmente anche perché si aveva da lottare con simili difficoltà anche in Austria, allora si aveva molta comprensione sia per le difficoltà sia per quello che fu raggiunto. Quella decisa opzione per l'Occidente e la rinuncia di fare la famosa politica di altalena fra Est e Ovest fu anche approvato in Austria, anche specialmente dalla situazione attuale con i russi, con i sovietici in casa. Anche la politica europea e dopo il naufragio universalmente rimpianto della comunità di difesa, anche l'inserimento della Germania nella NATO. Quelli che sapevano un po', diciamo, i famosi circoli politici, riconoscevano anche il contributo, certamente non voluto, ma pure effettivo, che questa politica della NATO, voi dite OTAN, no? No, NATO, voi dite anche NATO, della NATO, ha contribuito, c'era una volta anche quella parola OTAN, no? Organizzazione, che questa politica tedesca della NATO ha contribuito alla concessione sorprendente in un primo momento del governo sovietico di concludere il trattato di Stato dell'Austria il 15 maggio 1955, perché era proprio per anche permettere una specie di cuneo fra l'Italia e fra le truppe della NATO, fra l'Italia e la Germania, che si voleva questa neutralità austriaca con quella svizzera. Gerade dieser Abschluss des Staatsvertrags bildete allerdings den Anlass für die einzige ernsthafte Verstimmung zwischen Adenauer und den Österreichern. Dieser Staatsvertrag, in dem Österreich die volle Souveränität, die Bewahrung der politischen Einheit und Unabhängigkeit mit dem Versprechen der immerwährenden Neutralität erlangte, wurde von den innerpolitischen, also von den deutschen, innerdeutschen Kritikern von Adenauers Außenpolitik, dem deutschen Bundeskanzler ständig als nachahmenswertes Beispiel vorgehalten, etwa auch mit der angeblich von der Regierung Adenauer versäumten Chance des sogenannten Stalin-Angebotes von 1952. Dazu kam das dornige Problem des sogenannten deutschen Eigentums in Österreich, von dem großen Industriekomplex, der in der Besatzungszeit in der sowjetischen Besatzungszone zusammengefassten sogenannten USIA-Betriebe bis zum Privatbesitz deutscher Staatsbürger in Österreich, wie etwa Villen, Ferienhäuser, Jagdhütten und so weiter und so weiter. Als in der außenpolitischen Debatte im Deutschen Bundestag am 21. Juni 1955, also etwas mehr als einen Monat nach dem Abschluss des österreichischen Staatsvertrags, der Sprecher der sozialdemokratischen Opposition, Professor Carlo Schmidt, den Bundeskanzler und die Regierung scharf kritisierte und ihr Ungeschicklichkeit und Taktlosigkeit gegenüber den Österreichern vorwarf, verlor der Bundeskanzler die Beherrschung und rief unter anderem: Nirgendwo ist der Hitler so begeistert aufgenommen worden wie in Wien. Damit hatte er natürlich eine empfindliche Stelle im neu gewonnenen Selbstbewusstsein der Österreicher berührt und die Reaktionen waren dem teilweise dementsprechend. Es gab da hier gewiss auch Ausnahmen. Ich erwähne etwa den Artikel von Fritz Molden, dem damaligen Herausgeber der Presse, der selbst aktiver Widerstandskämpfer gewesen war und der hier gegen die Überbewertung sprach und der sagte gewiss Adenauer nach einer langen Diskussion in überreizten Zustand, das muss man auch verstehen und so weiter, die Dinge also abzuwiegeln suchte. Ich werde Ihnen dann hier, vielleicht wenn wir dann eine kleine Pause machen, werde ich Ihnen hier einige Karikaturen dazu herumgeben, damit Sie die Stimmung sehen. Vielleicht die eine hier und hier und hier und hier. Das gehört so und das dann bitte nehmen wir erst einmal die. Ja, die können wir dann auch noch. Ja, gut, die da. So, diese Karikaturen. Die erste Karikatur, die hier herumgeht, ist die von Köhler in der FAZ, die da. Das ist die berühmte Karikatur von Köhler, die sogenannte Reblaus-Karikatur, die, glaube ich, um die ganze Welt gegangen ist, die ein Welterfolg war. Es handelt davon, die wurde in Österreich sehr begeistert, natürlich oft zitiert, ist heute noch unvergessen, wie Raab, der übrigens völlig unmusikalisch war, im Kreml Zither spielt und die gesamten Kreml-Gewaltigen schluchzen gerührt, sogar vom Bild von Stalin, des verstorbenen Stalins, vom Schnurrbart tropft eine Träne und der im Hintergrund schon abgehalterte Malenkov weint auch und Khrushchev und Bulganin und alle weinen und Spiegel schleicht sich an Raab heran und sagt, Spiegel, jetzt noch die Reblaus, dann sind's wach. Die Reblaus, ein bekannter Heurigenschlager von Hans Moser, der auch in Deutschland bekannt war. Das zweite Bild dann ist von dem gleichen Köhler und das ist in Österreich weniger bekannt. Hier singt Raab nicht, sondern er malt. Und Fiegel steht wieder dabei und er malt ein Bild vom Einzug Hitlers in Wien mit schwarzen Fahnen und einer verlassenen Straße, nur eine alte blinde Frau und ein kleiner Hosenmatz grüßen und darunter steht dann so viel und das schickt man jetzt dem Adenauer, damit er keine Märchen mehr über den Einzug Hitlers in Wien verbreitet. Die dritte Karikatur ist dann von später, ist dann die, ja, das kann ich, die machen wir dann später, die erkläre ich dann später. Adesso ritorno, ja, nein, ich kann vielleicht noch weiter, auch eine andere Äußerung Adenauers im Zusammenhang mit dem Komplex des deutschen Eigentums rief in Österreich Verstimmung hervor. Er würde, wenn er wüsste, wo die Gebeine des Österreichers Adolf Hitler liegen, diese den Österreichern gerne auch als deutsches Eigentum überlassen. Auch das machte natürlich böses Blut. Das nicht sehr geschickte Auftreten eines nach Wien zu Sondierungen entsandten Sonderbeauftragten Adenauers verschärfte die Spannung, wobei auf beiden Seiten kaum verjährte Ressentiments aufbrachen. Es gelang aber dann besonnenen Elementen, voran dem späteren deutschen Botschafter Dr. Müller-Graf, eine Verhärtung dieser Gegensätze abzubauen. Ich darf hier in aller Bescheidenheit sagen, dass ich damals als außenpolitischer Ressortleiter der Presse und gleichzeitig als Wiener Korrespondent des Rheinischen Merkur zusammen mit Paul Wilhelm Wenger auch ein bisschen dazu beigetragen habe, dieses künstlichen Sturm im Wasserglas zu dämpfen. Das Entscheidende aber war dann im November 1955 der Besuch des deutschen Außenministers Dr. Heinrich von Brentano und des Staatssekretärs Professor Walter Hallstein in Wien, wobei es zu sehr herzlichen Kontakt kam. Hier wurden dann heurigen Lieder gesungen, nämlich der Nationalratspräsident Hurdes sang dann, was von mancher Seite, von sozialistischer Seite auch kritisiert wurde bei einem Empfang im Bundeskanzleramt, das berühmte Wiener Fiakerlied, wo dann der berühmte Pfiff kommt auf den Fingern. Ich kann nicht auf den Finger pfeifen, ich kann das also nicht, aber Hurdes. Sie sind eben kein Wiener. Und Hurdes konnte das. Ja, das ist. Hurdes ist auch kein Wiener, ist ein Kärntner. Nun, Brentano und Fiege verstanden sich ausgezeichnet, ebenso dann auch Raab und Adenauer, die bei Raabs Bonn-Besuch im Oktober 1956, die von den Ereignissen, allerdings von den Ereignissen in Polen und Ungarn überschattet war, dazu dann noch diese Karikaturen. Da sind dann die vom Wiedersehen, vom Treffen. Wobei man sagen muss, dass Raab und Adenauer ähnliches Temperament hatten, also ähnliche Typen waren. Dieser autoritäre, der trockene Humor, eher schweigsam, aber dann eben sehr scharfe Wesen sind. Es waren also sozusagen die gleiche Wellenlänge. Adesso ritorno all'italiano. Sono arrivato fino alla conclusione del Trattato di Stato nel maggio del 55, è stata proprio questa conclusione del Trattato di Stato che ha portato all'unica veramente seria screzio, si può dire, o verstimmung, come si potrebbe dire, dissapore, grazie, questo dissapore è la giusta parola, grazie, ogni tanto mi manca la giusta parola. Dunque, all'unico serio dissapore fra l'Austria e fra gli austriaci è Adenauer. Questo trattato di Stato che aveva dato all'Austria la piena sovranità e libertà e conservato l'unità dell'Austria fu usato dai critici interni tedeschi di Adenauer, della politica di Adenauer, e li fu messo davanti come esempio, vedi, così si doveva fare, anche in connessione col famoso fantomatico offerta di neutralità di staliniana, di Stalin ancora, del vecchio Stalin del 52 alla Germania. E poi, questa era la prima cosa, perché Adenauer fu un po' arrabbiato, veramente arrabbiato di questa cosa, e l'altra cosa era il difficile problema della cosiddetta proprietà tedesca. La proprietà tedesca, cioè i possessi tedeschi in Austria, sia dal prima del 38 o del dopo del 38, quando i tedeschi hanno comprato o preso delle cose in Austria, costruito delle fabbriche, tutto questo, delle fabbriche, delle grandi, era un problema enorme. E secondo i trattati di Potsdam, questi erano da prendere dai alleati. Allora i russi avevano nella loro zona costruito un impero industriale con questi ex possessi tedeschi, li chiamavano i cosiddetti fabbriche Usia. Questa era una cosa, ma poi anche il piccolo proprietario privato, cioè un tedesco che aveva già prima del 38, diciamo, una casa, una villa, una tenuta di caccia in Austria, tutto questo era preso dagli alleati, poi prima gli alleati occidentali avevano ceduto questo all'Austria e poi nel Trattato di Stato anche i russi contro una certa specie di riparazione. E allora il problema, che cosa doveva essere restituito ai tedeschi, Era un problema naturalmente molto complicato perché i cittadini tedeschi adesso si rivolgevano al loro governo, cercate che abbiamo di ritorno questa nostra proprietà, eccetera. Allora questo ha portato delle difficoltà e quando nella politica, nel dibattito sulla politica estera nel Parlamento tedesco, io 55, badate il tempo era un po' più di un mese dopo la conclusione del trattato di Stato austriaco, il oratore socialdemocratico dell'opposizione socialdemocratica, professor Carlo Schmidt, rimproverato al governo, criticava il governo e lo rimproverava di essere maldestro e poco una mancanza di tatto di fronte agli austriaci. Allora Adenauer perse le staffe e gridò: in nessun paese Hitler è stato salutato così entusiasticamente come a Vienna. Allora con questo naturalmente aveva toccato un punto dolente nella autocoscienza degli austriaci e le reazioni erano perciò naturalmente relativamente forti, a parte il fatto che naturalmente la stampa comunista soffiava dentro. Cito un esempio contrario che Fritz Molden, allora editore della Presse, l'attuale editore, che lui pubblicava un piccolo trafiletto, lui che era un attivo uomo della resistenza e che scriveva che non bisognava sopravvalutare, che certamente era inammissibile questa osservazione di Adenauer, ma in un certo senso bisognava comprenderlo, che lui era stanco dopo un lungo dibattito di molte ore nel Parlamento, eccetera. Un'altra osservazione di Adenauer anche fu preso male dagli austriaci, in complesso del Deutsche Eigentum, di questa proprietà tedesca, che lui disse se sapesse dove si trovano le ossa dell'austriaco Adolf Hitler, li manderebbe agli austriaci come proprietà tedesca, e questo è logico che non piaceva tanto agli austriaci. Poi fu il comportamento non proprio felice di un messo speciale che venne in Austria, che cercava un po' di usare le differenze d'opinione fra i due partiti della coalizione governativa, e anche per questo c'era un momento molto nell'autunno del 55, un momento, una tensione, una vera tensione fra i due governi, ma poi gli elementi moderati, fra gli altri specialmente il ambasciatore germanico che era già qui, non ancora in qualità di ambasciatore ma di capo della delegazione economica tedesca, la Deutsche Wirtschaftsdelegation, Dr. Müller-Graf, a calmare le onde. Io ho detto anche che ho contribuito anch'io un pochino come redattore politico della Presse e corrispondente viennese del Rheinische Merkur a calmare gli spiriti bollenti. L'importante fu poi la visita già nel novembre del 55 del ministro degli esteri von Brentano e del sottosegretario di Stato professor Hallstein, che conoscete tutti, a Vienna. In questa occasione Brentano e Fiege si sono compresi molto bene. E anche poi un anno dopo Raab e Adenauer, che avevano una certa affinità di temperamento, quel secco umorismo, quel carattere autoritario e molte cose, andavano bene d'accordo, benché questa visita fu un po' offuscata da quello che è successo nell'ottobre-novembre in Polonia e in Ungheria. In questa occasione ho fatto girare qui alcune caricature. L'una è la famosa caricatura che l'avete visto del, del Wiener Charm viennese nella, di Köhler nel Kreml, dove il figlio dice, adesso canta ancora, questa è una canzone viennese che si conosceva anche bene in tedesca in Germania perché era cantato da Hans Moser durante il periodo del Großstaatsreich, la Replaus. E questa caricatura dove tutti i grandi del Kreml piangono, perfino il quadro di Stalin piange, il Malenkov che è già messo da parte dietro una colonna piange, Shukov, Molotov e Bulganin, si sono tutti, è una caricatura magnifica. Questa era molto famosa, ma lo stesso ha poi fatto una caricatura piuttosto pungente, che questa volta Raab non canta, del resto lui era completamente amusito, come lui stesso confessava, non aveva orecchio, era completamente stonato, ma qui dipinge un quadro di Hitler, dell'entrata di Hitler a Vienna, completa assenza del pubblico, solo una vecchia cieca e un piccolo bambino lo salutano, e la città imbandierata di nero, eccetera, e dice e adesso questo quadro lo mandiamo a Adenauer perché non racconti delle balle sull'entrata di Hitler in Austria.